Perugia, 6 novembre 2009. Un centinaio di persone in rappresentanza del coordinamento precari della scuola e di Onda Perugia organizza un presidio sotto la RAI di Perugia. Poiché sotto la RAI succedono cose molto strane, ovvero si trovano giornalisti RAI e cameraman RAI, ma non contemporaneamente, il TG regionale del 19.30 è costretto a mandare in onda un servizio privo di interviste ai manifestanti. Si suggerisce maggior coordinamento. Buonasera da Anna Damolo e da Nona Malada, altro anagramma senza senso di Onda Anomala, che è però un po' più adatto a questo periodo influenzale. Infatti. Allora, parliamo subito di questo presidio che è avvenuto il 6 novembre. Un centinaio di persone del CPS, dell'Onda Perugia e del comitato Viva la Scuola Pubblica hanno tenuto un presidio sotto la RAI di Perugia per esprimere la loro opposizione verso la riforma della scuola, dell'università pubblica prodotta dal terribile duo Tremonti-Gelmini. Eh sì, diciamo che la scelta della RAI come punto di ritrovo per questo presidio non è stata affatto casuale, perché da tempo i precari della scuola, che appunto fanno riferimento al CPS, ovvero Coordinamento Precari Scuola, e precari dell'università, studenti dell'università dell'Onda Perugia, richiedono una maggiore, ma soprattutto più corretta, visibilità mediatica alla loro protesta. Infatti pare che la distruzione della scuola e dell'università pubblica e con esse del diritto allo studio garantito a tutti non sembra costruire né un problema né una tematica degna d'attenzione e di approfondimento per i media, anche per quei media che in altri campi rivendicano quotidianamente di essere un po' più liberi. Infatti, paradossalmente, infatti tocca a noi ad andare a imboccare i giornalisti e dar loro la notizia, e poi non sono nemmeno in grado di fare un servizio decente su una manifestazione che si svolgeva sotto le loro finestre. Infatti la cosa comica è proprio questa, che il 6 praticamente all'inizio sotto abbiamo trovato solo una giornalista. La giornalista Rai ha intervistato, si è preso qualche appunto, un po' ha intervistato Anna Damolo del Coordinamento Precari Scuola, poi ha intervistato Anna Damolo dell'Onda Perugia, ma senza neanche scrivere troppe cose. E poi dopo un po' è arrivato il cameraman, ma la giornalista è andata via. Quindi il cameraman ha fatto qualche ripresa. E alla fine, ovviamente, poi saranno andati su, in 4-4 avranno montato su un servizio così, alla bella e meglio. Siamo andati a casa, abbiamo visto il telegiornale delle 7:30 e questo servizio di 40 secondi forse diceva che c'era stato l'appoggio dei sindacati a questa manifestazione. Ovviamente di sindacati non... forse l'appoggio l'hanno dato, però ideale sì, l'hanno dato, però là, formalmente non c'era nessuno, che anche perché i sindacati non è che stanno appoggiando tanto la lotta dei precari, diciamo. Dai, a questo punto era più carino allora si incentravano il servizio sulle castagne e il vino gentilmente offerto dai GC, gentile compagnia, no? Sì, sarebbe stato meglio. Vabbè, del resto comunque a questa mala, pessima, cattiva informazione siamo un po' abituati, perché più di un anno forse, un mese, insomma, i pochi servizi televisivi, i pochi articoli giornalistici che riguardano le proteste sulla scuola e l'università pubblica, infatti, sono permeati da un'ignoranza della materia e soprattutto sono permeati da al becero allineamento alla propaganda del governo, che fa passare come continuamente come innovative una serie di controriforme a costo zero, che hanno come unico reale obiettivo il fatto l'aziendalizzazione e la svendita ai privati dell'istruzione pubblica, quindi sia della scuola che dell'università. Beh, dai, quanto ignoranza in materia, i media hanno un modello nella nostra ministra dell'istruzione, poco noto avvocato del Bresciano fino a qualche tempo fa e ora arbitro in terra del bene e del male. Sì, infatti, ma questa chiaramente non vale come giustificazione, anzi, un giornalista laddove vede ignoranza dovrebbe indagare, però vabbè, parliamo di un mondo ideale, di un mondo vecchio in cui dai, i giornalisti... raccontiamo come sono andate le cose alla fine, no? Vabbè, sì, dai. Non avendo quindi ottenuto la visibilità richiesta, gridata alla RAI, e poi siccome non era stato possibile rilasciare delle interviste ai giornalisti e non avendo neanche avuto la possibilità di salire direttamente in sede, gli organizzatori hanno deciso di fare un mini blocco del traffico per far arrivare la loro voce almeno ai cittadini, insomma, quelli che guidavano le macchine. Questi sono passati dalla parte dei cattivi, hanno fatto arrabbiare coloro che stavano lì, hanno fatto, infatti c'erano i soliti accompagnatori, perché noi ogni volta che facciamo, cioè noi scusate, gli Anne Adamolo ogni volta che si riuniscono, quest'anno hanno degli amici. Questi amici sono amici o della questura o della Digos, che ormai ci conoscono per nome, qualcuno conosce anche loro per nome, E beh, questa volta il venerdì scorso, nel momento in cui appunto questo gruppo di persone ha cominciato a fare avanti e dietro per le strisce pedonali in via Fanti, e la gente, c'erano anche i vigili che si cominciavano ad arrabbiare, questi digossini hanno cominciato a perdere un po' le staffe, hanno cominciato un po' a insultare, vi denunciamo, bla bla bla bla. Infatti, per magia, la RAI ha scoperto che in verità una piccola delegazione sarebbe potuta salire su in sede, no? Eh sì. Come per magia. Come per magia. Vabbè. Poi ovviamente saliti in sede, uno dice salgo in sede, a questo punto lì un cameraman e un giornalista Rai l'avranno trovati contemporaneamente, no? Saranno riusciti a fare un'intervista no. a questi poveri manifestanti che cercavano visibilità e correttezza mediatica. È vero? L'hanno fatta l'intervista, giusto? Dimmi di sì. No, non l'hanno fatta, però gli hanno promesso che l'avrebbero fatta, per cui diciamo prima o poi un giorno gliela faranno. E insomma hanno detto vogliono solo i precari della scuola, perché gli studenti invece diciamo i rappresentanti dell'Onda. Eh sì, perché i ragazzi dell'Onda a quel punto, siccome avevano parlato anche loro sotto, avevano chiesto, vabbè, visto che gli hanno concesso la possibilità di fare un'intervista, veniamo anche noi. No, invece non vogliono proprio capire che stiamo conducendo insieme una battaglia, cioè su più fronti, sembra solo diretta a loro. Vabbè. E del resto funziona così, dai, insomma. Vabbè, meno male che a questo punto ci pensiamo noi a dare visibilità a quelli della Rai, va? Per par condicio ci meritiamo l'apertura del TGR di questa sera. Dai, presentati anche tu, Nona Malada, chi sei? Non ci crederai, ma anch'io mi chiamo Anna Adamolo. E che cosa fai? Raccontaci un po' di te. Io sono uno studente universitario, sono all'ultimo anno di specialistica nel corso di consulenza pedagogica facente riferimento alla Facoltà di Scienze della Formazione. Inoltre ricopro il prestigiosissimo ruolo di rappresentante degli studenti, sia all'interno del corso di laurea che all'interno del consiglio di facoltà. Però ci tengo a sottolineare che non faccio parte di nessuna sigla sindacale o partitica, infatti mi sono presentato insieme ad altri ragazzi in una lista indipendente dal nome Movimento Autonomo Informazione. Ma allora quindi, come fanno ad ascoltarti, scusa, se non sei appoggiato da nessuno nel consiglio di facoltà? Questa è una bella domanda, infatti più che ascoltarci diciamo che si incazzano ogni volta che apriamo bocca. Per dirla tutta, qualche professore che ascolta c'è, alla fine del consiglio a verbale chiuso ci dà anche il suo appoggio, però la maggior parte dei professori nel consiglio di facoltà ci guarda quando parliamo con una faccia come per dire i ragazzi hanno ancora una lingua, o meglio i ragazzi hanno ancora un cervello che funziona. Non è facile allora essere dei rappresentanti veri, diciamo. Esatto, noi ci impegniamo molto, con il nostro gruppo facciamo molte riunioni e decidiamo le proposte da portare, cerchiamo di coinvolgere anche gli altri studenti. Però c'è da dire che le rappresentanze, così come sono concepite oggi, sono inefficaci, se non totalmente, quasi. Infatti 4 membri su 30 in un consiglio di facoltà sono estremamente pochi. Beh, certo. Comunque tu sei venuto qua per raccontarci qualcosa di molto delicato, vero Anna Adamolo? Esatto, ho avuto un'esperienza molto costruttiva o distruttiva, dipende dal punto di vista, leggendo l'atto ministeriale numero 160 del 4 settembre 2009, avente come oggetto, testuali parole, ulteriori interventi per la razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa nella prospettiva dell'accreditamento dei corsi di studio. Quindi se hanno come oggetto la razionalizzazione e la qualificazione, vuol dire che servono per portare irrazionalità e per dequalificare. Esatto, si sono accorti evidentemente che ci potrebbe essere ancora una sacca di resistenza attiva all'interno della facoltà, diciamo qualcuno pronto a generare ancora quel briciolo di cultura. Allora, quindi tu sei, insomma, questo atto di cui ci parli è del settembre 2009 e riguarda l'offerta formativa per l'anno accademico 2010-2011. Quindi diciamo è un po' un marito che cioè, spiega come le università devono adeguarsi. Esplicaci un po' l'oggetto di questo, del protocollo 160. Esatto, detto in parole semplici, quest'atto ministeriale mira a ridurre, questo è un eufemismo, il numero dei corsi di laurea e dei curricula offerti dalle università. Per farvi capire bene la situazione vi faccio l'esempio pratico della mia facoltà, quindi Scienze della Formazione. All'interno di Scienze della Formazione ci sono 5 corsi di studio attivati. i professori sono incardinati ognuno in un corso di studio. Attualmente e in passato però questi professori avevano la possibilità di insegnare le loro materie anche all'interno di altri corsi. E ma cosa avverrà quando quindi questo monito contenuto all'interno dell'atto diventerà operativo, ovvero quando il DDL della Gelmini, quello di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, diventerà vera e propria legge? Avverrà semplicemente che gli insegnamenti verranno drasticamente ridotti secondo le possibilità interne ad ogni corso. Infatti, perché ovviamente se un professore non può avere più due insegnamenti in due corsi diversi, non faranno due professori per due corsi, ma un professore per un corso solo. Esatto. Ne perdiamo questo, soltanto. È proprio questo l'intento del governo. Infatti, detto concretamente, mancheranno i soldi per i contratti di docenza esterni. Così, sempre per tornare alla mia facoltà, tra le materie caratterizzanti vedremo che la mia facoltà avrà la possibilità di avere equiparate la materia fondamentale di psicologia dello sviluppo a materie come botanica o zoologia. Quindi se avranno incardinato all'interno del corso un professore di botanica, potranno decidere che botanica conterà più di psicologia dello sviluppo per un educatore. Ed è ovvio che botanica conti più del psicologia dello sviluppo per un educatore, cioè voglio dire. Esatto, anche zoologia anche in effetti è molto costruttiva. Te lo domandi anche. E tenete presente che comunque ho cercato di rendere molto semplice quello che sono riuscito a capire, perché poi tutto non si riesce mai a capire ovviamente. E infatti queste carte, questi atti sono pieni di numeri e percentuali difficilissimi da interpretare, e vi assicuro che anche all'interno del mio corso di laurea i professori si stanno arrovellando per cercare delle soluzioni che tappino i buchi e che evitino la chiusura dei corsi. È veramente triste come si voglia offuscare la lente con cui si analizza il mondo. Cioè, è chiaro che non fornire giusti spazi alle facoltà umanistiche come a quelle scientifiche vuol dire eliminare un senso critico e procedere verso un pensiero unico. Ma proprio nessuno, visto che hai detto che quando, diciamo, a microfoni spenti qualcuno ti dice che voi avete ragione a protestare, insomma. Questo... Sì, sì. A questo proposito devo dire che dai piani alti, dato che noi facciamo lezione nei sotterranei, dai piani alti ho sentito dire da qualcuno che quindi conta più di me che questo governo vuole distruggere le facoltà umanistiche lasciando in vita solo quelle scientifiche, in attesa comunque di privatizzarle e di asservirle ai poteri forti e quindi ai voleri dell'industria. E ovviamente non possiamo dire chi è costui, perché perché lui, come dire, pubblicamente non prenderà mai questa posizione, ma in privato andrà a dire agli studenti che sì sì, sono dalla vostra parte, avete ragione a protestare, perché esatto. Vabbè, capita. Comunque, che dire, riprendendo quello che ha detto la nostra Anna Damolo, conduttrice, sì, il problema è quello dei giusti spazi, perché in un'università che realmente funzioni, le facoltà umanistiche e le facoltà scientifiche dovrebbero avere lo stesso peso e dovrebbero essere in grado di attirare gli stessi fondi, di produrre lo stesso tipo di ricerca. In realtà il governo ovviamente sta facendo dei decreti che porteranno probabilmente la chiusura delle facoltà umanistiche e porteranno all'accentramento dei poteri nelle facoltà scientifiche, però non lasciando libertà di ricerca all'interno delle facoltà scientifiche, ma cercando di privatizzare i prodotti delle facoltà scientifiche. Poi vabbè, io a questo punto porto l'acqua un po' al mio mulino, perché faccio un discorsetto. In realtà non credo che ci sia poi tutta questa differenza fra facoltà umanistica e facoltà scientifica. Infatti io ritengo che la matematica che è ritenuta la regina delle facoltà scientifiche, in realtà è una scienza umana, cioè non è umanistica ma è umana. Infatti sviluppa innanzitutto la fantasia e la capacità di ragionamento, perché senza capacità di astrazione e quindi senza fantasia non si possono concepire nuove congetture, ovvero nuove cose che poi potranno diventare teoremi. Ma senza la capacità di ragionamento però le congetture non le dimostri, e quindi non puoi dimostrare che le congetture, cioè le idee che avevi avuto, erano idee reali. Voi siete tutti d'accordo con ma me. Ma sta zitto, che voi matematici siete tutti un branco di matti, cioè da eliminarvi tutti proprio. A parte che non sono matematico, comunque vabbè, va, prendiamoci questa nomea di matti, poi del resto abitiamo tutti nella stessa via, in via dei matti numero 0, facciamo un omaggio a Sergio Enrico, va. Allora, come al solito concludiamo con gli appuntamenti dell'Onda Perugia, vediamo cosa ci aspetta questa settimana. Sì, dunque, domani, giovedì 12 novembre, c'è l'assemblea settimanale dell'Onda, che come capita spesso avviene di giovedì. La settimana, cioè, no, la settimana passata, questa settimana c'è, cioè, domani, ci vediamo a Scienze, davanti all'entrata di Scienze Politiche alle ore 16. Faremo quindi un resoconto sulla protesta che è cioè, effettuata lunedì 9 a Scienze Politiche contro il famoso esame per le matricole col meno di 70 alla maturità. Ricordiamo che a questo esame anche qualcuno che oggi sta parlando ha partecipato, infatti, visto che io immagino che ci siano i fedeli ascoltatori di questo programma che volevano sapere com'è andata alla povera Anna Damolo qui presente e al povero Anna Damolo, l'uomo abbastanza in carne, che ci ha raccontato la settimana scorsa dei suoi problemi, com'è andato l'esame? Allora, i risultati in maniera ufficiale ancora non si sanno, però diciamo che è stato abbastanza terrorizzante, in quanto sembrava di ripercorrere gli attimi della maturità, una serietà e un terrore, il gelo poteva respirare in quell'aula, però speriamo insomma che sia andato bene, anche perché se no insomma potremmo essere molto molto arrabbiati. Infatti ricordiamo che alla facoltà di Scienze Politiche in sede di programmazione didattica per questo anno accademico ha votato, con probabilmente anche l'adesione dei rappresentanti studenteschi, ha votato l'introduzione di un esame per coloro che si iscrivevano al primo anno e non avevano passato alla maturità con più di 70 centesimi. Quindi sì, in sostanza un esame su cultura generale e altro, che però prevedeva come obiettivo principale la possibilità di fermarne qualcuno di questi studenti che avevano già pagato le tasse, in modo da potersi assicurare almeno un altro anno di loro tasse. Infatti, perché sottolineiamo il fatto che questo esame è avvenuto appunto lunedì, per cui insomma già a novembre, già con i corsi iniziati, le tasse pagate, e avrebbe eventualmente fermato la possibilità di dare gli esami del secondo semestre. Comunque speriamo che appunto le nostre Anne Adamolo abbiano passato questo esame, se no toccherà andare a protestare. E vabbè, comunque, a parte quindi il resoconto di questa protesta effettuata l'altro ieri, cioè lunedì 9, abbiamo anche all'ordine del giorno domani in assemblea un altro tema che sta molto caldo, che sta scoppiando in questo momento qui a Perugia, cioè il problema delle borse di studio, del problema qua tra appunto documenti, qualcuno che ha presentato documenti, cioè c'è del malcontento, vogliamo anche capire cosa c'è dietro questo malcontento, abbiamo invitato persone a partecipare all'assemblea, quindi se qualcuno di voi ha avuto problemi con l'iscrizione alle borse di studio è invitato a venire domani alle 16 a Scienze Politiche. Poi, guardando a più ampio spettro, ci prepariamo alla partecipazione dell'assemblea indetta dai precari dell'Università della Sapienza, aperta sia a studenti, docenti e precari della scuola, per il 20 novembre alle 10.30 alla Sapienza. E Perugia in questa assemblea pare, nel suo piccolo, invece sembra piccola Perugia, dice che cosa c'è da andare a fare le persone di Perugia a Roma dove c'è la Sapienza. No, pare che Perugia ha qualcosa da raccontare, perché non in tutte le città infatti si è realizzato ciò che in questi due mesi si è realizzato qui a Perugia, cioè una capacità di dialogo, una capacità di unità tra coordinamenti precari della scuola, e tenete presente che i CPS, cioè i coordinamenti precari scuola, sono comunque nati in tutte le città d'Italia, perché in tutte le città d'Italia chiaramente i professori ad inizio di settembre hanno scoperto di non essere, cioè di non aver più così tanta possibilità come l'anno scorso di avere dei contratti annuali, e quindi sono scesi sul piede di guerra. E quindi da una parte coordinamento precari della scuola, quindi docenti precari della scuola, ma oltre a questi anche coordinamento che hanno al loro interno docenti di ruolo della scuola stessa, perché anche questo da notare, che nella futura scuola probabilmente il ruolo non esisterà più, diventerà solo tempo indeterminato, e quindi la differenza è che a tempo indeterminato tu rischi da un giorno all'altro di tornare cioè di vederti reindirizzato in altri uffici se la scuola non ha più posto. Bene, si è ottenuta questa unità tra docenti di qualsiasi livello e precari e studenti universitari che partecipano all'onda, ma anche docenti della stessa università. Ovviamente non tantissimi, però qualcuno interessato c'è. E questa unità raggiunta in questi due mesi di intenso lavoro e faticoso lavoro, diciamo, è stata appunto resa visibile proprio venerdì scorso sotto la RAI, quando appunto eravamo, magari uno passava e diceva sono pochi, però eravamo molto eterogenei, cioè convinti, forse pochi ma convinti, ma soprattutto eterogenei, cioè tante persone che da esperienze diverse in realtà erano unite da un unico obiettivo, cioè questa unione di obiettivi c'è. Infatti c'è da capire bene infatti che l'attacco portato dal governo all'istruzione pubblica ha una stessa matrice, gli stessi obiettivi, ovvero cancellare il bilancio dallo Stato, le voci più scuole, università, e approfittare della crisi per ristrutturare il sistema formativo espellendone totalmente la parola democrazia, partecipazione e diritto allo studio. E oltre appunto quindi noi di Onda Perugia e anche precari della scuola continueremo appunto a farci sentire in modo unito, quindi porteremo anche a Roma questa nostra esperienza di movimento perugino per reclamare università e scuola gestite dal basso, senza poi dimenticare che appunto le università vengono in realtà gestite da persone che vedono gli studenti precari stessi come un limone da spremere in tempi di crisi o peggio da una fabbrica di produzione sia materiale, cioè manovalanza praticamente, ma anche produzione di tipo immateriale, cioè cognitivo immateriale, cioè nel senso una fabbrica di ricercatori che lavora per i privati, che secondo il nuovo DDL Gelmini, ripetiamo questa volta, lo ripetiamo, per il 40%, cioè il consiglio di amministrazione avrà l'obbligo di avere almeno il 40% di privati all'interno. Al proprio interno, cioè 40% di privati su che decide cosa fare e dove indirizzare i fondi dell'università. Quindi è una privatizzazione che si completa, e qua piccola postilla, non è vero che la privatizzazione è entrata ora nell'università, perché sono 20 anni che i privati sono entrati nell'università, e magari quelli che dicono ora hanno privatizzato l'università, in realtà non dicono la realtà, perché era già in atto. Sì, perché era già in atto, perché tanti processi erano già in atto da parecchi anni. Va bene, dopo questa, diciamo, lungo monologo che ogni tanto mi prende, vabbè, comunque penso di essere stato chiaro. Ti perdoniamo. Grazie. E salutiamo il nostro ospite rappresentante. Grazie, alla prossima. E speriamo che ci siano anche altri rappresentanti in altri consigli di facoltà, in altri corsi di laurea. Parleremo anche con precari, insomma. Sì, no, nel senso, speriamo che ci siano altri rappresentanti come lui, perché insomma qualcuno che... Tanto speriamo che ci siano ancora i corsi di laurea, perché se no non ci saranno neanche più rappresentanti. Questo è anche vero, vabbè, speriamo. Diciamo speriamo, va. Arrivederci. Occasione che non posso perdere, amico, ti prego. Lasciami andare, fammi provare un'onda prima di portarmi via. Un'onda sola. Sono Anna Adana. Voglio portare tutte queste voci dentro questo palazzo. Sono Anna Adana. Sono single, lavoro. Ho già passato le peregrinazioni. Le nostre voci hanno già suonato e urlato e le piante. Rischio anche di vedermi tubare dal sedimento. E ho vinto il concorso per italiano, storia negli istituti tecnici. Le nostre voci dentro questo palazzo. Non voglio presenze da sempre. Non ho una casa. Sono Anna Adana. Voglio portare tutte queste voci dentro questo palazzo. Senza me sono andata le prime a lei. Le nostre voci hanno già suonato e urlato nelle piazze e siamo stufe di non contare nulla. Siamo stufe di subire i giochi della politica. La politica adesso la facciamo noi, portando le nostre voci dentro questo palazzo, dentro tutti i palazzi. Non voglio smettere di lottare perché qualcosa non cambia.